vostri affetti sospireran di gioia. Ah, vedi come la bambinosa mi stringe il mio dinamor, l'olmo marino. Tal quest'alma al mio cuore stringer amor, dindi son umillor. Qui al Cina il ritrovo, il mio rocciero mi sapreste additar nel fine. Forse per poco te la rapine, io ti prego, par che lo spirito un rio testo impreveda.